Il terzo anello ad alta voce, I mandarini di Simone de Beauvoir. Gli ultimi invitati se ne andavano. Bruscamente lo studio fu vuoto. Ci fu ancora qualche rumore per le scale, dei passi martellarono il silenzio della strada e Paul si mise a raccogliere i bicchieri dimenticati ai piedi delle poltrone. «La tua voce è sempre così bella», disse Henri. «Era tanto che non t'avevo sentita. Perché non canti più?» Il viso di Paul si illuminò. «La mia voce ti piace? Vuoi che canti per te qualche volta?» «Certo», sorrise. «Ma sai cosa dice Anne? Che dovresti ricominciare a cantare in pubblico». Paul lo guardò scandalizzata. «Ah no, non parlarmi di questo, è una questione liquidata da tempo». «E perché?» disse Henri. «Hai visto come t'hanno applaudita? Erano tutti impressionati. Si stanno aprendo tanti locali nuovi in questo momento e la gente desidera vedette nuove». «No, te ne supplico, non insistere. Esibirmi in pubblico. Mi farebbe orrore, no?» ripeté con voce implorante. «Non insistere». Ci fu un silenzio. Poi ella chiese. «Saliamo?» «Saliamo». Paul si sedette sul letto, si tolse gli orecchini e fece scivolare gli anelli. «Sai», disse con voce più tranquilla, «se ho avuto l'aria di rimproverarti il tuo viaggio, ti chiedo scusa». «Che idea! Hai bene il diritto di non amare i viaggi e di farlo sapere», disse Henri. Il fatto che per tutta la serata, scrupolosamente, Paul avesse covato quel rimorso lo metteva a disagio. «Capisco perfettamente che tu abbia voglia di partire», disse Paul. «E capisco persino che tu voglia partire senza di me». «Non è che voglia». Paul l'interruppe d'un gesto. «Non hai bisogno di far la persona educata con me». Le mani posate sulle ginocchia, gli occhi fissi, il busto eretto, ella aveva l'aria d'una calma sibilla. «Io non mi sono mai sognata di rinchiuderti nel nostro amore. Tu non saresti più tu se non desiderassi orizzonti nuovi, alimenti nuovi». Si chinò in avanti e posò su di lui il suo sguardo fisso. «Mi basta ad esserti necessaria». Henri non rispose. Non voleva abbatterla né incoraggiarla. «Se almeno potessi volergliene», pensò. «Ma no, non un motivo di rancore». Paul si alzò e sorrise. Il suo viso ridivenne umano. Posò le mani sulle spalle di Henri, una guancia contro la sua guancia. «Tu potresti fare a meno di me?» «Sai bene di no». «Sì, lo so», disse gaiamente. «Anche se mi dicessi il contrario non ti crederei». Se ne andò nel bagno. Henri cominciò a spogliarsi e infilò il pigiama. Udì un frusciare di seta, poi un rumore d'acqua e di cristalli. Questi suoni un tempo gli tagliavano il respiro. Si disse con nausea: «No, non questa sera». Paul apparve nel vano della porta, i capelli sparsi sulle spalle, grave e nuda. Era perfetta, quasi come una volta. Solo che adesso, per Henri, tutta quella bellezza non significava più niente. Ella si lasciò scivolare sotto le lenzuola e si strinse senza una parola contro di lui, che non trovò nessun pretesto per respingerla. Henri si mise a carezzarle le spalle, i fianchi familiari, e sentì che il sangue gli affluiva docilmente al sesso. Tanto meglio. La strinse con violenza, schiacciò la bocca contro le sue labbra, senza aspettare entrò in lei, per aver più presto finito. In lei faceva rosso, come nello studio, troppo rosso. Si mise a gemere, a gridare parole, come un tempo. Ma un tempo l'amore di Henri la proteggeva. I suoi gridi, i suoi gemiti, il suo riso, i suoi morsi, erano offerte sacre. Oggi egli era coricato su una donna frenetica, che diceva parole oscene e le cui unghie facevano male. Aveva orrore di se stesso e di lei. La testa rovesciata, gli occhi chiusi, i denti nudi, ella era così totalmente offerta, così spaventosamente perduta, che lo prese il desiderio di schiaffeggiarla per riportarla sulla terra, di dirle: «Questa sei tu, questo sono io e stiamo facendo all'amore. È tutto, non c'è altro». Gli sembrava di violare una morta o una pazza e non gli riusciva di sbarazzarsi del suo piacere. Quando infine si lasciò ricadere su Paul, intese un gemito trionfante. Ella mormorava: «Sei felice?» «Certo, io sono talmente felice», disse ancora Paul, guardandolo con occhi illuminati e brillanti di lacrime. Egli nascose contro la propria spalla quel viso dallo splendore insostenibile. «I mandorli saranno in fiore», si disse chiudendo gli occhi, «e gli aranci avranno ancora i frutti». No, non sarà oggi che conoscerò la mia morte, né oggi né alcun altro giorno. Sarò morta per gli altri, senza essermi mai vista morire. Ho richiuso gli occhi, ma senza potermi riaddormentare. Perché la morte ha di nuovo traversato i miei sogni? Mi gira intorno, la sento che mi gira intorno. Perché? Non l'ho saputo sempre che sarei morta. Da bambina ho creduto in Dio. Una veste bianca e due ali luccicanti mi aspettavano nel guardaroba del cielo. Poi Dio è diventato un'idea astratta in fondo al cielo. E anche questa idea, una sera, l'ho cancellata. Non ho mai rimpianto Dio. Mi rubava la terra. Ma un giorno ho capito che rinunciando a Lui, m'ero condannata a morte. Avevo 15 anni. Nell'appartamento deserto ho gridato. Riprendendo i sensi mi sono chiesta: come fanno gli altri? Io come farò? Potrò vivere con questa paura? Sono stanca, ho bevuto troppo. È solo un piccolo delirio delle 4 del mattino. Non è questo il momento che dovrei scegliere per tormentarmi. È festa questa notte. Il primo Natale di pace. L'ultimo Natale a Buchenwald. L'ultimo Natale sulla terra. Il primo Natale che Diego non ha vissuto. Abbiamo ballato, ci siamo abbracciati intorno all'albero scintillante di promesse ed erano tanti quelli che non c'erano. Nessuno aveva raccolto le loro ultime parole e non erano sepolti in nessun luogo. Il vuoto li aveva inghiottiti. Io pensavo, l'ha saputo Diego che stava per morire? Si è rivoltato, rassegnato. Come saperlo? E adesso che è morto, che importanza ha? Passava da noi quasi tutto il suo tempo. Suo padre era un ebreo spagnolo che si intestava a guadagnare soldi negli affari. Si diceva protetto dal console di Spagna. Diego gli rimproverava il suo lusso e un'opulenta amante bionda. La nostra austerità gli piaceva. E poi era nell'età in cui si ammirava Robert. Era venuto un giorno a portargli le sue poesie e fu così che lo conoscemmo. Dall'istante in cui aveva incontrato Nadine, le aveva dato impetuosamente il suo amore, il suo primo, il suo unico amore. Lei, il sentirsi finalmente necessaria, l'aveva incantata. Aveva installato il ragazzo in casa. Quell'anno siamo state amiche, mia figlia ed io. Io le ero grata d'essere capace d'un amore sincero e lei m'era riconoscente di non aver contrariato il suo cuore. Perché avrei dovuto farlo? Non aveva che 17 anni. Ma pensavamo, Robert e io, che per la felicità non è mai troppo presto. Una mattina i tedeschi bussarono alla porta del signor Serra. Il console di Spagna era stato sostituito senza che lui l'avesse saputo. Diego aveva dormito da suo padre quella notte. La bionda non ebbe fastidi. «Dite a Nadine che non abbia paura per me», disse Diego. «Tornerò, perché voglio tornare». Furono le ultime parole che si siano sapute di lui. Ogni altra parola sua è inghiottita per sempre. Lui che amava tanto parlare. La bionda aveva versato 3 milioni a un tedesco di nome Felix, che ci trasmetteva i messaggi dei due prigionieri, e aveva promesso di farli evadere. Due volte col binocolo potemmo intravedere Diego a una lontana finestra delle caserme Drancy. Avevano rasato la sua testa lanosa e non era più proprio lo stesso Diego quello che ci sorrideva. La sua immagine mutilata galleggiava fuori del mondo. Un pomeriggio di maggio poi trovammo le grandi caserme deserte. «Sono in un campo di prigionieri americani», ci fece sapere la bionda più tardi. «Stanno bene, fanno i bagni di sole». Ma lei personalmente non li aveva visti. Noi mandavamo biancheria, cioccolato e ci arrivavano dei ringraziamenti per bocca di Felix. Ma nessun messaggio scritto ci arrivava più. Nadine reclamò un segno. L'anello di Diego, una ciocca di capelli. Ma proprio allora li avevano cambiati di campo. Erano da qualche parte, lontano da Parigi. A poco, la loro assenza cessò di situarsi in un luogo qualunque. Furono assenti e niente altro. Non essere in nessun luogo, non esserci più, non fa molta differenza. Non ci fu nulla di cambiato quando Felix disse alla fine, irritato, «È un pezzo che li hanno ammazzati». Nadine ha urlato per notti intere. Da sera a mattina la tenevo tra le braccia, poi ha ritrovato il sonno. Al principio Diego veniva nei suoi sogni, un'aria cattiva. Un po' più tardi anche il suo fantasma è svaporato. Nadine ha ragione, non è vero che io la rimproveri. Che fare d'un cadavere? Lo so. Li utilizzano per confezionare bandiere, scudi, fucili, decorazioni, megafoni e anche ninnoli da appartamento. Allora meglio lasciare in pace la loro cenere. Dei monumenti o della polvere. Ed erano stati i nostri fratelli. Ma non abbiamo scelta. Perché ci hanno lasciato? Che anche loro ci lascino in pace. Dimentichiamoli. Restiamo tra noi. Abbiamo già abbastanza da fare con le nostre vite. I morti sono morti. Per loro non ci sono problemi. Ma noi vivi, dopo questa notte di festa, dovremo svegliarci. E allora, come viveremo? Nadine rideva con Lambert, un disco girava, l'impiantito tremava sotto i nostri piedi, le fiammelle azzurre vacillavano. Io guardavo Sézénac, che se ne stava sdraiato sul tappeto. Ripensava probabilmente a quei giorni gloriosi in cui se n'era andato in giro per Parigi col suo fucile a bandoliera. Guardavo Lambert, il cui padre si diceva gli avesse denunciato Rosa, la fidanzata, e Vincent, che aveva finito di sua mano una dozzina di miliziani. Cosa faranno di questo loro passato così pesante, così breve, e del loro avvenire informe? Saprò aiutarli. Aiutare il mio mestiere. Posso sdraiarli sul divano e fargli raccontare i loro sogni, ma non farò risuscitare Rosa, né i 12 miliziani che Vincent ha finito di sua mano. E anche se riuscissi a neutralizzare il loro passato, che avvenire avrei da offrirgli? Io allontano le paure, sbroglio i sogni, limo i desideri, adatto. Ma a che cosa dovrei adattarli? Non vedo più niente intorno a me che stia in piedi. Decisamente, ho bevuto troppo. Non sono io che ho creato il cielo e la terra. Nessuno mi chiede delle ragioni. Perché sto tutto il tempo a preoccuparmi degli altri? Farei altrettanto bene a occuparmi un po' di me stessa. Appoggio la guancia contro il cuscino. Sono lì. Sono io. L'imbarazzante è che, su di me, non trovo niente da pensare. Oh, se mi si domanda chi sono, posso mostrare la mia scheda. Per diventare analista ho dovuto farmi analizzare. M'è stato trovato un complesso edipico piuttosto pronunciato, che spiega il mio matrimonio con un uomo di 20 anni più vecchio di me, una netta aggressività nei riguardi di mia madre, qualche tendenza omosessuale convenientemente liquidata. Debbo alla mia educazione cattolica un superio fortemente sviluppato. È questa la ragione del mio puritanesimo e del mio scarso narcisismo. L'ambivalenza dei miei sentimenti verso mia figlia proviene dalla mia ostilità verso mia madre e dalla mia indifferenza verso me stessa. La mia, insomma, è una storia delle più classiche e si è docilmente piegata agli schemi previsti. Anche agli occhi dei cattolici il mio caso è affatto banale. Ho cessato di credere in Dio quando ho scoperto le tentazioni della sensualità. Il mio matrimonio con un non credente ha finito di perdermi. Dal punto di vista sociale, Robert e io siamo degli intellettuali di sinistra. Niente di tutto ciò è completamente inesatto. Eccomi dunque, e senza averci niente in contrario, chiaramente catalogata. Eccomi adattata a mio marito, al mio mestiere, alla vita, alla morte, al mondo, ai suoi orrori. Sono io, e niente di più. Quanto dire nessuno. Essere nessuno a conti fatti è un privilegio. Li guardavo andare e venire nello studio, loro tutti che avevano dei nomi, e non li invidiavo. Screasin m'è venuto vicino. Non avete l'aria di divertirvi molto. Faccio quello che posso. Ci sono troppi giovani. I giovani non sono mai allegri. e troppi, proprio troppi scrittori. Accennò col mento a Lenoir, Pelletier, Conge. Scrivono tutti, no? Tutti. E voi? Non scrivete? Dissi ridendo. Gran Dio, no! I suoi modi bruschi mi piacevano. Avevo letto in passato come tutti il suo libro famoso Il Paradiso Rosso, ma soprattutto m'aveva commossa l'altro suo libro, sull'Austria nazista. Aveva fuggito l'Austria, dopo la Russia, e s'era fatto naturalizzare francese. Ma aveva passato questi 4 anni in America e l'avevamo rivisto per la prima volta in autunno. «Mi chiedo come andranno a finire gli intellettuali francesi», dissi. «Gli intellettuali francesi sono in una situazione senza uscita», disse Scriassin, e aggiunse con una specie di soddisfazione. «È venuta la loro volta. La loro arte, il loro pensiero, non conserveranno un senso che se una data civiltà riesce a salvarsi. E se vogliono salvarla, non gli resterà nient'altro da dare all'arte né al pensiero». In Francia non avete mai sentito in tutta la sua urgenza la pressione della storia, ma in Unione Sovietica, in Austria, in Germania, era impossibile eluderla. È per questo che io, per esempio, non ho scritto. Ma avete scritto? Già, credete che non pensassi anch'io a libri d'un altro genere, ma era impossibile. Alzò le spalle. Avremmo dovuto avere dietro di noi una ben forte tradizione umanistica per interessarci a problemi di cultura di fronte a Stalin e a Hitler. Evidentemente, riprese, nel paese di Diderot, di Victor Hugo, di Jaurès, ci si immagina che la cultura e la politica stiano benissimo insieme. Parigi si è presa tanto tempo per Atene, ma Atene non esiste più. È finita. Thank you. Mentre tornavamo a braccetto per il lungo fiume, nel buio familiare, la sua voce volubile non bastava a rassicurarmi. Robert mi strinse il braccio. «Cos'è che non va?» «Escriassin», dissi. «M'ha spiegato che gli intellettuali francesi sono a terra». «Lui certo non vorrebbe altro». «Lo so, ma m'ha fatto paura lo stesso». «Una ragazza dell'età tua, lasciarsi influenzare dal primo venuto». «A me non dispiace», Escriassin. «S'agita, divaga, ribolle, guarda intorno spiritato, ma non bisogna prenderlo sul serio». «Dice che la politica vi divorerà e che non scriverete più». «E tu l'hai creduto», disse Robert allegro. «È vero però che le vostre memorie sono rimaste lì». Robert esitò un secondo. «È un caso speciale», disse. «Perché?» «Perché in queste memorie do agli altri troppe armi contro di me». «Ma è per questo che il libro vale», dissi vivamente. «Un uomo che osi scoprirsi è così raro, e quando osa, è allora che vince la partita». «Sì, quando è morto», disse Robert. Alzò le spalle. «Eccomi rientrato nella vita politica e ho una quantità di nemici. Ti immagini il loro giubilo il giorno che queste memorie uscissero?» «I vostri nemici troveranno sempre armi contro di voi, quelle o altre». «Senti», disse in tono conciliante, «un libro di più o di meno sulla terra non è così importante. E la situazione è appassionante. Pensa un momento. È la prima volta che la sinistra tiene in mano le proprie sorti. La prima volta che si possa tentare un raggruppamento indipendente dai comunisti senza rischiare di servire la destra. Non vorremmo lasciar passare quest'occasione. Un'occasione che ho aspettato tutta la vita». «Io, dissi, trovo che i libri sono molto importanti. Quel che portano alla gente è qualcosa di unico. Mentre d'un lavoro politico non siete il solo a potervene incaricare». «Sono il solo che possa farlo come l'intendo io», disse scherzando. «Dovresti capirmi. I comitati di vigilanza, la resistenza, sono stati una bellissima cosa, ma una cosa che restava negativa. Oggi si tratta di costruire. È ben altra cosa». «Capisco benissimo, ma la vostra opera mi interessa ancora di più». «No, noi abbiamo sempre pensato che non si scrive solo per scrivere, e in certi momenti ci sono forme d'azione più urgenti. C'è una quantità di cose che bisogna evitare prima di divertirsi a scrivere libri che forse nessuno leggerà mai». Mi fermai di botto in mezzo alla strada. «Come? Allora pensate anche voi che la gente stia per disinteressarsi della letteratura?» «Ma certo è che avranno molte altre gatte da pelare». Il suo tono era davvero troppo disinvolto. Dissi indignata. «La cosa non ha l'aria di impressionarvi, ma sarebbe terribilmente triste un mondo senza letteratura e senza arte». «In tutti i modi, oggi come oggi, ci sono milioni d'uomini per i quali la letteratura è zero». «Sì, ma dicevate che le cose sarebbero cambiate. Ci contavate». «Ci conto ancora, cosa credi?» disse Robert. «Ma appunto, se il mondo si decide a cambiare, traverseremo probabilmente un periodo in cui non sarà più questione di letteratura». Eravamo entrati nello studio. Mi sedetti sul bracciolo della poltrona di pelle. Avevo bevuto troppo punch. I muri mi giravano intorno, ma mi sentivo molto lucida, molto più lucida che se non avessi bevuto. Da sobri ci si difende troppo, ci si arrangia per non sapere ciò che si sa. D'un tratto vedevo chiaro. La guerra finiva. Nella nuova storia che cominciava non c'era più niente di garantito. L'avvenire di Robert non era garantito. Era possibile che smettesse di scrivere e persino che tutta la sua opera passata fosse inghiottita dal vuoto. «Che cosa pensate in realtà? Che le cose si metteranno bene o male?» Robert si mise a ridere. «Ah, ma non sono profeta io. Posso solo dire che abbiamo delle buone carte in mano». «Ma quante probabilità di vincere?» «Non credi che sia un po' tardi, che abbiamo bevuto molto punch e che avremo le idee più chiare domattina? Vai a dormire. E domani ci faremo tutte le domande che vorrai, anche quelle che non servono a niente». Mi sono addormentata e ho sognato che ero morta. Mi sono svegliata di soprassalto e la paura era sempre lì. È per Robert che ho paura. Fin qui ho sempre avuto fiducia nel suo destino. Mai ho cercato di ridurlo alla sua misura. La misura di tutte le cose era lui. Ho vissuto con lui come in me stessa, senza distanza. Ma d'improvviso non ho più fiducia, in niente. Né stella fissa né pietra miliare, Robert è un uomo di 60 anni, fallibile e vulnerabile, che il passato non protegge più e che l'avvenire minaccia. M'appoggio ai cuscini, gli occhi aperti. Bisogna che riesca a prendere della distanza, a vederlo